molto difficile dare una definizione precisa della mia vicenda, che dura ormai da più di 20 anni, dalla vigilia di Natale del 1992. È una vicenda che ha inciso profondamente e irreparabilmente sulla mia esistenza. Direi che è stata una assurdità, una incomprensibile e inenarrabile e terribile vicenda. Non mi sentirei neppure di dire che è stato un errore giudiziario. L'errore, se anche c'è stato all'inizio, poteva essere facilmente riparabile. Non si è voluto riparare. Si è voluto andare fino in fondo, con tutti i pretesti, tutte le possibili, immaginabili e inimmaginabili astuzie. Di chi, dottor Contrada? Da parte principalmente di chi ha voluto questo processo, di chi lo ha imbastito, di chi lo ha organizzato, di chi lo ha portato a termine. La pena senza alcun dubbio mi è stata irrogata ingiustamente, perché io per tutta la mia esistenza ho servito fedelmente le istituzioni dello Stato.